Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti, buona settimana a tutti. 800240024, numero verde, Franco Piantrini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, Claudio Schettone in redazione. Mi sembra un lunedì, mi verrebbe in mente una rubrica Trash and Sport. Mi è venuto in mente, leggendo, tanto per cominciare, delle parole di, strane peraltro, di Pavel Nedved su Chiellini, che è un suo giocatore. Nedved, come sappiamo, dirigente della Juventus, e ha detto: Chiellini si è comportato come un bambino mostrando il morso all'arbitro. Per certi versi Suarez lo capisco, era un giocatore simile a lui. Auguri, eh? Anche se certe cose non le approvo, ma ero furioso per la reazione di Giorgio accettando le scuse. Ha dimostrato la sua intelligenza, chiedendo alla FIFA di accorciare la squalifica a Luis. Un morso ancora? Ancora un morso? La morsa ancora forse? La morsa di nuovo? Difatti la mia prima intenzione era... La morsa ancora? Era, sembrava più un morso che una testata. La morsa di nuovo? Ma incredibile! Ma incredibile! E ti fanno male i denti anche! Avrei preso l'osso! No, dopo prende la reazione di Chiellini. Ma Chiellini si è comportato con un bambino, come un bambino mostrando il morso all'arbitro, dice Nedved. Tanto non appartiene al trash, ma è una notizia di cui parleremo tra poco. Albertini alle 16.30 presenterà la sua candidatura alla Federcalcio, candidatura approvata, stando alle dichiarazioni di intenti, da Juventus, Milan e Roma. Noi stiamo a guardare le stelle, gli altri invece le vanno a prendere, perché oggi James Rodriguez, stella del mondiale, si vestirà con il bianco del Real Madrid per una bazzecca, la solita operazione colossal, 70-75 milioni di euro, una cosa da ridere. Però tornando all'altra pagina di qui sopra, parole di Nedved, poi vedo un audio con Gasperini, guardatelo su YouTube, adesso vi faccio sentire una cosa, però andatelo a cercare, Gasperini che balla la techno nel ritiro del Genoa, occhiali da sole improbabili e questa musica. Vai, prendi il sole e lo attiri su di te, è l'energia positiva per un campionato alla grande. Energia positiva per un campionato migliore, questo l'augurio al Genoa. Ma sì, divertiamoci, 20 di luglio, fuori che a Milano c'è un tempo da lupi. Divertiamoci così con le immagini di Gasperini. Poi, naturalmente, c'è Niki Lauda, Sua Maestà Niki Lauda, che ieri, dopo Hockenheim, è andato giù dolce con i vecchi amici della Ferrari. Ma Ferrari ha fatto una macchina di merda e Alonso è un frustrato. Penso che abbiamo fatto sì, un po' quello che potevamo fare, sicuramente vogliamo lottare per posizioni più alte o posizioni di podio, ma non è stato il caso neanche oggi, ma penso che erano troppo veloci quelli davanti, no? E anche Vettel alla fine comunque gomme metti alla seconda sosta, alla terza sosta. Penso che era più veloce di me oggi, quindi la lotta era con Ricciardo più alla fine. Ma sì, ma tanto la Ferrari è una macchina di merda, dice Niki Lauda. 800240024, naturalmente poi parleremo di questo, parleremo di Nibali che sta dominando il tour, parleremo di tutte queste cose. E, poi ce ne sono anche molte altre. Stavo leggendo ora Ucraina, situazione che conoscete, avete sentito anche prima nello spazio europeo. Però c'è questo braccio di ferro a proposito di modi abbastanza bruschi. Sapete, sei giocatori brasiliani che giocano allo Shakhtar non vogliono ritornare perché hanno comprensibilmente paura. Però il presidente dello Shakhtar, Akhmetov, dice: se non torneranno, subiranno le conseguenze, saranno loro i primi a rimetterci, hanno tutte le clausole di rescissione per decine di milioni, non facciamo saldi. Se volete poi vi racconto anche di Tataranni malmenato in Spagna dopo aver vinto il campionato europeo di hockey su pista, vi posso raccontare anche di tre nazionali di rugby francesi aggrediti a colpi di macete nella notte, insomma tutte varie ed eventuali, tanto per gradire, per divertirsi. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo, e tu? Bene, bene. Hai qualcosa da aggiungere alla pagina del trash? si sono scatenati, sentito Chiellini, quel cioè Nedved, quel bambino di Chiellini gli ha fatto vedere il morso. Una roba da niente, concertante, eh? No. Che Pavel lo conosciamo, insomma, è un uomo vero, duro. Mi ricordo quando ci raccontò che andava da bambino ad allenarsi, faceva 20 minuti a prendere il suo treno e correva per 20 minuti fino a raggiungere il treno con la borsa. Insomma, quindi è chiaro che stiamo parlando di un Highlander, però. Sì. Ma però è un giocatore della sua squadra, cioè anche è una dichiarazione che comunque anche a livello, diciamo, politico e mediatico faccio sinceramente un po' fatica a capire. Però Pavel è veramente uno un po' naif. Mi ricordo quando venne ospite un paio di anni fa a 11, piazzò puntata divertentissima la sua carriera, la sua storia, piazzò una frase su Ibrahimovic che fece titolo il giorno dopo, tipo Ibra, sì certo, Ibra, chiaro che lo vorrei, magari. Capito? Cioè, delle volte parla più da appassionato di calcio e come si parla al bar che da dirigente, e questo è anche il suo bello, se vuoi, no? Nel senso che comunque uno che detto questo, insomma, un morso è un morso, no? Un diamante per sempre, un morso è un morso. Sì, no? Anche c'è un ascoltatore, si chiama Franco, che scrive: molta ipocrisia, chiunque abbia giocato a calcio sa che Ned dà ragione. Io faccio fatica a capire anche questo di Franco. Cioè, voglio dire, ti mostri e dici: oh, guarda cosa mi ha fatto. Cioè, non mi sembra una roba normale. Senti, Pier, invece, la notizia del giorno: noi abbiamo un sacco di cicaleccio di mercato, come tu sai, no? Ieri sera vertice ad Arcore con tutte le componenti del Milan, tutti contenti a tavolo, di nuovo tutti d'accordo, si parla di nuovo di Balotelli all'Arsenal, Wenger dice no, non mi interessa, quegli altri Galliani dicono no, è un sogno sfumato, eccetera eccetera. Intanto gli altri se li vanno a prendere, ovviamente chi può, c'è chi può e chi non può. Il Real, solita operazione colossal, che oggi si chiude, 70-75 milioni, e James o James o come vuoi tu, Rodriguez, che si veste di bianco. Sì, cioè da chiedersi se una ristrutturazione del mondo del calcio stile NBA non possa essere la strada. Dici? Beh, sai, il calcio ha di bello che soprattutto nelle competizioni di Coppa l'elemento imponderabile è molto forte. Per cui può succedere, ad esempio, che l'Atletico Madrid, con un budget nettamente inferiore rispetto al Real, possa essere in vantaggio fino all'ultimo minuto della finale, salvo poi prendere il pareggio e cambia tutto. Nelle 38 partite questo è più difficile, infatti ricordo, abbiamo parlato spesso, per me l'impresa dell'Atletico Madrid dell'anno scorso in campionato è ancora più assurda, è ancora più impensabile, perché pensare che abbia vinto il campionato con 14-15 giocatori contro squadre che ne avevano 25 è veramente incredibile. E detto questo, però, un po' di noia rischia di arrivare, nel senso che poi alla fine la forchetta fra ricchi e poveri si allarga di anno in anno sempre di più, perché comunque questa è una legge del mercato, della vita, e possiamo fare anche della sociologia spicciola su tutto questo. I soldi chiamano soldi, per cui più hai soldi e più ti regalano le cose, e più hai soldi e più, nel caso della Champions, partecipi, e quindi significa premi, sponsorizzazioni, e quindi la forbice si allarga molto. L'NBA c'ha questo meccanismo che tu conosci meglio di me, è un meccanismo che vuole tutelare l'equilibrio. Insomma, secondo me siamo quasi al limite di guardia, poi per carità, 70 milioni, è pure vero che poi il mercato ha i suoi anticorpi, per cui il Real Madrid, il Chelsea o il Manchester City quando vanno a comprare spendono di più perché la gente sa che hanno i soldi. No, però anche a Monaco hanno i soldi, però non hanno nemmeno l'anello al naso, anche se sono molto ricchi, andranno a guadagnare dai 25 ai 30 milioni in una decina di mesi, perché hanno comprato Rodriguez, se non ricordo male, per 45 un anno fa dal Porto, che pure fece un grandissimo affare as usual. Certo. E adesso questi saranno anche russi, avranno anche i soldi, però non hanno l'anello al naso. Se su 70-75 si vende il giocatore, e poi ne parliamo. Tutto quello che avevano pagato al Porto, riuscire a fare una plusvalenza, riuscire a fare una esatto, dura, capolavoro. Beh, ha fatto anche un mondiale, certo. Il mondiale. Ascolta, ci fermiamo un attimo, come sai, per il traffico, ma poi torniamo. 800240024. Nogaro alle Rocca, andiamo. Jackson Martinez è arrivato alla copertura. Ancora Jaime! Jaime Rodriguez! Jaime Rodriguez! El 10! El 10, che gol! Che gol del 10! Convocati. Sì, non nascondo che è vero, perché Ibra lo considero all'altezza di giocatori come Ronaldo e Messi, tra i primi tre del mondo, perché è uno che ti fa cambiare la squadra, che ti migliora la squadra, uno che riesce a giocare da solo avanti, perciò chi non vorrebbe Ibra, a me piacerebbe quello sicuro. Pierluigi, dichiarazioni d'antan, no, a parte caduto, 800240024, intanto il numero verde, ma stavo dicendo che quelli del Monaco hanno fatto un discreto affare, però anche al Real Madrid naturalmente non hanno l'anello al naso, perché Di Maria è in uscita verso Parigi, sempre a proposito di arabi, e il prezzo di Di Maria non sarà molto lontano da quello di Rodriguez, ricordo 70-75 milioni di euro, e oggi si vestirà di bianco, manca solo l'ufficialità, ma manca davvero poco. Stavamo parlando e vorrei parlare anche di quanto sta accadendo al Milan. Come ho detto ieri, c'è stato questo vertice ad Arcore, sembra di nuovo che tutte le varie componenti societarie stiano viaggiando d'amore e d'accordo. Quanto al mercato ci sono solo chiacchiere, si parla di Cerci e di Lavezzi, due giocatori che costano moltissimi soldi e sono secondo me praticamente inarrivabili per il Milan, a meno che non riprenda quota la pista della cessione di Balotelli. Ma le dichiarazioni di oggi di Wenger sono, cioè più che dichiarazioni, secondo Wenger non è sfumato questo interesse per il giocatore del Milan. Sembra che Balotelli, insomma, venga considerato in questo momento più per il potenziale di vendita delle magliette con il suo numero che non per quanto vale realmente. Caso contrario rispetto a quello di Rodriguez, quotazioni in netto ribasso. Pierluigi? Eccoci. Albertini si candida per la Federcalcio, alle 16.30 annuncia la sua decisione, con il benestare di Rossi, Giuseppe Rossi. Cosa penso della candidatura di Demetrio Albertini alla presidenza della Federcalcio? È un bel segnale che, Guido Rossi naturalmente, un bel segnale che l'ex giocatore ambisca quella carica, speriamo e vedremo. Cosa dici di Albertini? È uno sconfitto designato? Ma se guardiamo i numeri, guardiamo gli equilibri che ci sono in questo momento, sì, nel senso è parecchio, insomma, sulla carta io poi non è che sono un grandissimo esperto di queste vicende politiche, ma anche un po' noia, però vabbè. Anche a me, però, ecco. Non so, a me sembra uno sconfitto designato, cioè proprio il candidato sì. Che, bah. Beh, però, insomma, diciamo che se si candida è perché avrà avuto in questi giorni la sensazione che qualcosa possa cambiare. Se dobbiamo valutare così aprioristicamente quello che abbiamo visto e i rapporti di forza delle varie componenti che poi portano al Consiglio federale a scegliere il nuovo presidente, se non cambia niente non c'è partita. Quindi chiunque va lì va semplicemente a fare una candidatura di bandiera, come si dice in gergo politico. E qua però magari qualcosa cambierà, insomma è chiaro che è un nome, con tutto rispetto per Tavecchio, capace forse di accendere qualche fantasia in più e quindi di poter portare dalla sua parte qualcuno e di portare a qualche modificazione di uno status quo che al momento però è chiarissimo e parla solo di Tavecchio. Sì, ma comunque è anche interessante la battaglia che sta dietro i due nomi, perché come sappiamo, insomma, la candidatura di Albertini è stata portata avanti in qualche maniera da Barbara Berlusconi, poi Agnelli, ma anche Pallotta e la Roma appoggiano questa possibilità, e quindi è molto interessante anche quanto sta dietro. Si riesce ad aprire una breccia nel fronte. Chi li segue? Bisogna vedere chi li segue. E poi bisogna sempre, c'è questa anomalia, se vuoi, della Lega di Serie A, che è chiaramente la più forte dal punto di vista economico, quella che muove gli interessi maggiori, anche quella che ha forse più bisogno di un presidente carismatico e presentabile, e che però poi pesa relativamente poco nel 100% dei votanti per il presidente federale, e quindi pure questa è poi un'incongruenza. Ascolta, a proposito di potere di Lega, hai letto quanto sta succedendo in Germania con il Bayern Monaco, che ha detto vabbè, ma no, la nostra squadra praticamente ha giocato in tutte le nazionali del mondo fino alla fine. 9 o 10 giocatori del Bayern Monaco che sono arrivati fino alla fine hanno detto no, facciamo così, il campionato non lo iniziamo più il 22 di agosto, lo iniziamo una settimana dopo. Tutti gli altri hanno detto ma di cosa state parlando? E allora Rummenig vogliono rovinarci, il sistema vuole rovinarci, perché non vogliono accettare di far riposare i nostri giocatori una settimana in più. Carina, questo è un classico rapporto di forza fra grandi e piccoli, tra poteri che si scontrano, insomma, è chiaro che non ha ragione Rummenigge su questo. Ma è chiaro, anche perché sennò ognuno fa come, cioè il Bayern Monaco decide quando inizia il campionato. Vince, magari anche diciamo la fierezza di aver portato 7 undicesimi o qualcosa del genere, la squadra che ha vinto il mondiale, magari prova a spendere questa propria popolarità, questa posizione di potere, mi sembra il gioco abbastanza chiaro, abbastanza scoperto, ma da un certo punto di vista anche comprensibile. Poi, tra l'altro, il Bayern, lo ricordiamo, quest'anno ha vinto il campionato il 25 marzo, pure se parte un po' male l'anno prossimo. Che cosa vuoi che cambi? Vedi, questo è l'aspetto, il discorso che facevamo prima, no? Dell'equilibrio, quanto è importante l'equilibrio. Tu lo vedi non a livello di Champions League, che è una competizione ovviamente sempre più figa e sì, aleatoria, in radio 24, no? Sì, si può tranquillo, mi faccio prendere così dall'amicizia. E, è una competizione straordinaria, però poi ci sono dei campionati nazionali che vengono completamente svuotati. Sì. Il campionato francese e il campionato tedesco sono due robe che Guarda, paradossalmente manteniamo l'equilibrio noi, ma livellati verso il basso. Questo è un antico discorso abbastanza palloso. Sì, e tra l'altro però il nostro equilibrio relativo, perché comunque fino a 3 giorni dalla fine c'è stata abbastanza partita, e comunque c'è una squadra che vince il campionato da tre anni consecutivamente. Quindi, insomma, alla fine anche noi mi sembra che, ecco, forse quest'anno potrebbe cambiare qualcosa, ma vediamo. È tutto un discorso di quello che si vuole, ma è chiaro che nel momento nel quale il mercato è libero, siamo in questo regime veramente di liberismo del mondo del calcio, il trattato finanziario è un discorso molto relativo, nel senso che esiste ma con delle sanzioni che sono ancora abbastanza vaghe, e soprattutto il trattato finanziario giustamente si piega, cioè giustamente la sua motrice si lega a regole liberiste, cioè certo. Il trattato finanziario non ti dice che tu non puoi spendere più di X per un giocatore, ma chi va a rinunciare a dei soldi che vengono immessi nel sistema? Cioè, onestamente anche questo poi il rischio è che il giocattolo si sgonfi, cioè una delle bellezze della NBA e degli sport americani è legata proprio a questo senso dell'equilibrio. Se la Bundesliga adesso per 12 anni consecutivi il Bayern vince il campionato con 2 mesi d'anticipo, poi forse fra 12 anni allo stadio non ci va nessuno, o forse sì, o forse ci vanno tutti comunque, perché il calcio è talmente forte che riesce a sopravvivere anche alla certezza di chi vincerà. Però ecco, la Bundesliga di quest'anno, insomma, è stata una cosa veramente, bisognava dare dei contributi, sussidi, secondo me, per vedersela, perché campionato che sai già che tanto dove l'unica cosa da capire è con quanti punti lo vincerà il Bayern e a quante giorni dalla fine potrà festeggiare. Francia più o meno lo stesso discorso, in Spagna la situazione la conosciamo. Senti, ma a proposito di quelli che hanno vinto gli ultimi 3 scudetti, avrei letto l'intervista di Prandelli a Severgnini sul Corriere della Sera. Cosa ne pensi di quelle? Conte non adatto alla nazionale perché non può caricare i giocatori vedendoli una volta ogni tanto. Sembra quasi che Conte sia più un allenatore, sia considerato un mental coach. No, io adesso ribadisco la mia umile battaglia, conto niente, però insomma, conta forse più Tavecchio. Per me Conte è l'allenatore ideale per la nazionale. Ideale, in questo momento una federazione in difficoltà, dopo gli schiaffi che ha preso in questo mondiale, bisogna di un vincente. Però se non va da Conte almeno a fare una chiacchierata, almeno a capire se ci sono le condizioni, secondo me la federazione è sconfitta in partenza. Certo. Poi non è detto che vincerà, questo è evidente. Il discorso di Prandelli ha un suo frammento logico, cioè Conte sicuramente è un allenatore che ha fatto vedere queste cose eccezionali in 3 anni. Perché la nazionale, perché la squadra l'ha allenata tutti i giorni. Sì. Questo suo essere un martello tutti i giorni ovviamente ha fatto la differenza. Certo. Detto questo, e mi sento di poter dire che probabilmente d'accordo anche lo stesso Conte, se noi avessimo avuto l'organizzazione e la capacità di comunicare alcuni concetti basilari che questo allenatore ha saputo dare alla Juve, l'avessimo applicata sulla nazionale e un po' più di polso nella gestione dei problemi enormi che ci sono stati nello spogliatoio, forse in un mondiale come questo andavamo molto più avanti. Sì, ma poi anche una questione di immagine, difeso dalla campagna demagogica della dietrologia che già era d'accordo, perché qua ci sono le prove, lo sappiamo. No, le dimissioni sono dimissioni e vanno sempre rispettate in questo paese dove non si dimette nessuno, perché comunque sono una rinuncia ai soldi, sono una rinuncia qualcosa di certo per l'incerto. Se il Galatasaray avesse cambiato idea, lui perdeva i soldi, quindi questa cosa per me rimane una medaglia per Prandelli. Su questo passaggio però non sono d'accordo. Sì, no, comunque Conte sia allenatore ideale per la nazionale, non penso si possa essere tutti d'accordo, o se non siete d'accordo ditelo, 800 24 00 24, come sempre, ma anche per una questione di immagine, proprio in questo momento di depressione c'è comunque bisogno di un allenatore che abbia un'immagine vincente che restituisca fiducia, in cui si possa credere, c'è bisogno di questo, quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che sia il candidato ideale. Intanto, sai che Francesco è il casellante di Nogarole Rocca, grande, che tanto ossessiona Pardo e da qui vi sto ascoltando, da Nogarole Rocca, casellante, potenza di Nogarole Rocca. Non lo so, è una tua fissa. C'è anche Lucani, che a Nogarole Rocca. Sì, per il palinsesto dell'anno prossimo, sì. Insomma, lui spingerà per una moltiplicazione dei momenti legati al traffico durante la giornata. Sì, ho deciso che ci sacrifichi, se sei d'accordo, ci sacrifichiamo noi e ti lasciamo le nostre, i nostri bag del traffico e gli diamo tutti a lui, perché a lui fa proprio gode nel, sì. Quindi bisogna saper fare un passo indietro. Esatto, e soprattutto accontentare Cruciani, che senza il traffico non può nemmeno dormire. No, prima di salutarti invece volevo un'altra considerazione, sempre a proposito di quelli che hanno vinto gli ultimi tre scudetti. Che Juventus immagini per Allegri, così a occhio e croce sulle chiacchiere di mercato sono cambiate le strategie, naturalmente si passa dalla ricerca ossessiva ad un esterno a quella verso un trequartista. Immagini una Juventus comunque simile a quello che è stato magari il suo primo Milan? Ma immagino una Juventus che non verrà stravolta, nel senso che comunque stiamo parlando della squadra nettamente numero uno in Italia, almeno fino a questo mercato. Poi adesso la Roma sta facendo cose eccezionali e ha giustamente l'ambizione di poter fare il sorpasso, però diciamo lo status quo è quello. Poi magari dietro l'addio di Conte ci può essere anche la consapevolezza che un certo tipo di ciclo si sia concluso, che certi giocatori sono un po' logori. Ci sono degli allenatori da questo punto di vista che sono bravissimi, ma che forse proprio perché riescono a sedurre i propri giocatori e a farli pensare in maniera totalizzante, nel momento in quale vanno via lasciano un vuoto. Penso a Mourinho. Sì. Conte potrebbe essere un allenatore così, nel senso che uno di quelli, no, è come le amanti straordinarie che si entrano in testa e poi quando vanno via inevitabilmente lasciano un vuoto. Non lo so se questo accadrà. Per me la Juve è forte, è fortissima, e mi pare che comunque le operazioni di mercato, al di là di certi trionfalismi, insomma, sì. Di Morata si sta parlando come se fosse Van Basten, è un giocatore interessantissimo, da vedere, può diventare un fenomeno, ma è ancora un giovane, no? Da questo punto di vista, per dirti, Immobile secondo me è un giocatore più pronto, io ci capisco poco, ma mi sembrava una soluzione più semplice da un certo punto di vista. O Destro mi sembra un giocatore ad oggi più avanti rispetto a Morata nel percorso di crescita, però sicuramente Morata è interessantissimo per il futuro. Chiedrà, è un po' lo stesso discorso che si può fare con Ashley Cole, cioè sì. Sono giocatori un po' in avanti con l'età, ma che se hanno voglia possono ancora fare tantissimo. E sul resto sì, probabilmente c'è meno l'ossessione dell'esterno, c'è più invece la forza di robustire la squadra in mezzo. La vera domanda di mercato della Juve, così come per la Roma, è capire se Benatia rimarrà e eventualmente da chi verrà sostituito, e della Juve è capire se partirà uno fra Vidal e Pogba. Sì, certo. È il tema, insomma, e da chi verrà sostituito. Però insomma io non penso che, così come non penso che la Juve farà degli investimenti folli quest'anno, non penso che farà una campagna acquisti in grande passivo dal punto di vista delle spese, però non penso questo è anche il motivo ufficiale dell'addio di Conte. Poi dietro a questo probabilmente c'è dell'altro. Grazie Pier, ciao. Dai, ciao. Tutti convocati. Questa cosa dell'Arsenal, ecco, l'emozione è già finita, subito tagliata, poesia finita, andiamo alla prosa. Io non lo so, a noi non è arrivata nessuna offerta, nessuna cosa, nulla, quindi non al momento. Ma no, ma scusi, è inutile ragionare per ipotesi, siccome non c'è questa offerta, quindi è inutile fare ipotesi, perché assolutamente no. Salvo che trovo una mail domani mattina, ma al momento non mi risulta. Controllare la mail, prego Galliani, ma Wenger ha detto, ma una punta non mi serve, Balotelli non penso, quindi stiamo con queste parole, poesia finita. Buongiorno Silvio, come sta? Tutto bene? Sì. Vorrei esprimere il mio parere in merito a Conte, allenatore della Nazionale. Conte è un ottimo allenatore, indubbiamente ha dimostrato in questi anni cosa è in grado di fare con dei giocatori anche in alcuni reparti, tipo difesa, non eccelsi. Però mi chiedo, un allenatore come Conte è in grado, allenando solo sporadicamente il gruppo, di trasmettere quella grinta, quella, quella ferocia alla, a un gruppo di ragazzi che, ripeto, con cui si ritrova solo sporadicamente. Sì. Io penso di no. Questa è l'obiezione, la stessa obiezione, lo stesso rilievo che ha fatto Prandelli. Però Conte, io credo che sia un eccellente allenatore che può portare in, ma allenatore tout court, non sia solo un motivatore di giocatori, uno che ti trasmette quel tipo di rabbia. Credo che sia una spiegazione un po' troppo semplicistica, cioè Conte ha fatto un eccellente lavoro non solo sul cervello della Juventus, ma sulla Juventus tout court, quindi mi sembra ma ha potuto farlo lavorandoci quotidianamente, questo è il punto, l'unico dubbio mio. Ma questo vale per tutti gli allenatori di club. Si ricorda cosa si diceva molti anni fa per Sacchi, ma come, ha un calcio sofisticato, ha bisogno di lavorare sul gruppo tutti i giorni, eccetera. Ma questo discorso si poteva fare per Lippi, che è un allenatore che veniva dai club, si poteva fare per Prandelli. Io ricordo che Sacchi comunque è arrivato alla finale dei mondiali nel 94 per essere rigori, però con la nazionale non ha mai raggiunto i livelli che aveva raggiunto con il Milan quando allenava il Milan, proprio per lo stesso motivo, penso. Forse c'era anche qualche motivo di qualità in nazionale. Gullit e Van Basten, ad esempio, non c'era. Non lo dico a me che il Milan e quindi, poi soprattutto uno come Conte, siccome è un tipo un po' troppo sanguigno, per allenare la nazionale, anche per presentarsi in conferenza stampa, bisognerebbe avere anche un po' più di diplomazia. Ma non cosa è detto, che Conte, un po' più di umiltà, cosa che in Conte non vede, sinceramente. Ma non, ma magari in questo momento serve anche qualche schiaffone, anche attraverso l'opinione pubblica, cioè serve probabilmente qualcosa di diverso rispetto a quello che era Prandelli. Fire had come in on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Si accendono i semafori sui motori, 3, 4, 5 sulle pulsazioni, si spengono i semafori e parte il Gran Premio di Germania con Nico Rosberg che riesce a tenere la posizione, rimane piantato, invece là Jules Bianchi scartato da Chilton all'attacco, attenzione Magnus si tocca subito con Bottas, cappottato Massa con Bottas che è sfilato via. Subito un botto violento, Magnussen che ha cercato di buttarsi all'interno con il contatto al via con la Williams di Felipe Massa, secondo incidente consecutivo per Felipe Massa con safety car subito chiamato in pista. E allora tutti i piloti che rallentano subito l'azione. Ottima partenza di Fernando Alonso che si trova in quarta posizione alle spalle di Sebastian Vettel. Vediamo le condizioni, scuote la testa e più rabbia questa per Felipe Massa. Il contatto, si è capottata la sua Williams con il contatto con Magnussen, sentite in sotto fondo il vuoto del pubblico per Felipe Massa. No, era sicuramente una sensazione molto strana vedere tutto il contrario, no? Però sono a posto, non ho avuto un colpo forte, quindi sono a posto. L'unica cosa è che sono molto dispiaciuto perché un'altra gara dove qualcosa strano succede e un'altra gara da fare tanti punti. Sui costruttori avevamo una lotta abbastanza interessante, oggi abbiamo perso punti con la Williams, purtroppo, che hanno fatto podio ancora. La McLaren sta salendo di forma, la Red Bull uno è davanti, uno è dietro, quindi oggi abbiamo preso 10 punti solamente per il campionato costruttori. Speriamo prossima gara di tutte e due Ferrari essere sui punti e aiutare la squadra al massimo. Agghiacciante quello che dicono, agghiacciante quello che dicono. Allora, classifica costruttori, la situazione abbastanza interessante è questa: Mercedes 366, Red Bull 188, Williams 121, Ferrari 116, Force India 98. Ciao Leo Turrini. Ciao carissimo, come andiamo? Benissimo, sai che canzone è questa? No, la canzone la conosco. Down Under, sotto sopra. Sì, ma con chi parlavi prima a proposito di Conte? Ascoltatore, perché? No, perché volevo dirti che io sono arrivato alla conclusione che avendo un anno sabbatico, Antonio Conte potrebbe dare una mano a noi della Ferrari. È un grandissimo motivatore. Io vorrei suggerire questa idea a Marco Mattiacci, perché voi ormai vi divertite a prendere in giro la Ferrari. Noi? No? Noi? Noi? Invece Lauda, invece il vecchio Niki no. Cos'è che ha detto? Una macchina, non mi ricordo più di che cos'è. Sì, ho capito, però voi dovete capire che Lauda parla, come dire, una sorta di italiano maccheronico, pensa in tedesco. È un misunderstanding, poi, tu dici. Poi, sì, non è un misunderstanding, ha detto con franchezza quello che io, te, milioni di italiani pensiamo, che questa macchina rossa purtroppo non è riuscita benissimo. Però per quanto riguarda il termine, stamattina Lauda ha telefonato all'avvocato Montezemolo, poi si trova una notizia, e ha chiesto scusa, forse perché sapeva già che noi in Ferrari stiamo per assumere Conte come motivatore. Antonio Conte agghiacciante, lo portiamo qui e vedrete che le cose prenderanno una piega diversa. Ma per inciso, una volta che ha finito il lavoro con la Ferrari, lo mandiamo in nazionale o no, secondo te? Sul discorso della nazionale, per quanto riguarda Conte, io mi tengo abbastanza vago, nel senso che sai, io ero con il tuo amichetto Pardo in Brasile, no, un mese a sentire Prandelli che ha detto i valori, la patria, l'etica, la morale, la rava, la fava, e poi è andato in Turchia, no? Come se fosse Aladino, hai capito? Allora, adesso quando parliamo di simboli, di brand, andiamoci cauti, hai capito? Soprattutto voi del calcio, andateci cauti, perché voi poi infierite tutti sulla Ferrari. Ma voglio dire, ieri il mio idolo Raikkonen, no? Non ha forse animato dei trielli degni del cinema di Sergio Leone? Da quanto tempo non vedevate delle scene così? Poi vabbè, è stato sfortunato, però voglio dire, no? Cerchiamo di non buttarci via, caro Gente. Allora è stato sfortunato. Gente, fai una trasmissione meravigliosa, gente, però sei un po' ostile alla Ferrari, questo lo dico. Io sono senza patria, Leo, tu lo sai, voi del calcio. Tu stai con Pardo, con queste logiche qui. Poi scusa, prima hai fatto sentire la partenza di Hockenheim, no? Ma ci dobbiamo meravigliare per Massa? Ma io mi meraviglio, cioè sarà un caso, però Australia, Kobayashi, il Canada e Perez. Io lo so che adesso tu fra 30 secondi mi dici il traffico e mi blocchi e queste cose io non le capisco, perché tu fai delle trasmissioni che sono dei cult e poi vengono sospese per dire ha forato un camion sulla Torino Val di Susa. Scusa, ma in Brasile storicamente per chiunque si chiami Felipe il momento è terribile. Ho capito. Prima è sfortuna per la Ferrari, adesso è una questione di nome. Scolari alluvionato da gol tedeschi e olandesi. L'altro Felipe chi è? Massa, che a ogni Gran Premio si schianta, si sfracella, si spatacca. La conclusione qual è? Che a San Paolo il ragioniere Ugo Fantozzi aveva un parente, qualcuno. Perché veramente Massa, tra Massa e Raikkonen, io non so dire, siamo ai livelli non della nuvoletta che piove, grandina sistematicamente. Sì, questo è vero. Mi incuriosisce anche il discorso dei secondi che diventano i primi. Vuoi per la sfortuna, vuoi per il nome Felipe, però Bottas lo sta pestando tutte le volte, il povero Felipino. Allora, su Bottas dobbiamo dire una cosa. Io potrei qui citarti l'ultimo film di Alberto Sordi, no? Col grande Blair, una botta di vita che consiglio a tutti, soprattutto a quelli della mia generazione, perché parla di prepensionati, straordinario. Qui siamo a una Bottas di vita, però scusate, tu, gente, sei un dietrologo, no? Certo. Ma com'è che sta Williams, tra tutte le macchine che hanno il motore Mercedes, è l'unica che va forte? Non so, dimmelo tu. Prendi la Force India, la McLaren, non toccano palla, no? Dimmelo tu. Hanno la Power Unit Mercedes, come mai? Non so, dimmelo tu. Ma non sarà perché il grande capo della Mercedes, che si chiama Toto Wolff, è il secondo azionista della Williams, e sua moglie Susanna tutta panna è quella che addirittura fa la tester della Williams e va forte quasi quanto Massa. Siamo in presenza di un gigantesco conflitto di interessi, tu dici. Hai capito? E Bottas, da chi è gestito Bottas in termini di procure, visto che Pardo te parla sempre, no? Raiola, Balotelli, procuratore. Chi è il procuratore di Bottas? Chi è? Toto Wolff. Ma va, Toto, davvero? Ma veramente? Io, Ma io ti do delle notizie, gente. Ma veramente? No, una venerazione. Certamente, veramente. È veramente sì. E quindi è un gigantesco complotto? No. La congiura, adesso la dobbiamo lasciare, come tu sai, al mio sì, idolo Mazzarri, l'Inter, okay. Toir, eccetera. Mm-hmm. Queste cose, Ranocchia, Capitano. Però effettivamente, se tu ci vai a pensare, perché le altre squadre che hanno il motore Mercedes non vanno forte come la Williams? Non lo so. Io ti ho appena dato una spiegazione. Sì. Ma hai dato una spiegazione perfetta che rimane lì sullo sfondo e noi... È l'idea della cospirazione, esatto, che è meravigliosa. No, senti una, è il cuore dello sport mondiale. Leo, come al solito, mi hai risolto la giornata in questo lunedì di pioggia. Però io voglio chiederti ancora una cosa prima del traffico, che adesso tra poco mi tocca. Arriva il traffico veramente. No, vuoi sentire? No, aspetta, stai lì. Senti. C'è il traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Convocati. Allora Leo, come sai, orario estivo, invece di due ore ne abbiamo una soltanto e siamo molto compressi, però io volevo... No, ti voglio solo dire sì. Che tra Piero e Cormano, come ha detto questa voce robotica, sì. C'è la coda perché sta guidando Raikkonen, questo è giusto che lo sappiate, è lui che sta rallentando la gente, perché dite sempre questa roba, tra Piero e Cormano. Tra Piero e Cormano io ti adoro, quando ero bambino avevo Gento, detto in spagnolo Gento, no? Quello del Real Madrid, sì. Adesso che sono anziano ho te, quando dite sta roba, tra Piero e Cormano code, che la dite da 5 anni, brividi, no, di più, fotografia di più. Dell'Italia, devo dire, è perché c'è Kimi che sta guidando, quindi ditelo ai vostri radioascoltatori, tra Piero e Cormano c'è Kimi, guida Raikkonen, e non è Alonso, sta andando dal pescatore, ti ricordi il pescatore dello spot? Sta andando dal pescatore, stato un sacco di volte dal pescatore là, quello famoso, quello sul lago, la pubblicità, bravo, no, cosa fai qui? Non lo so, sei arrivato, non lo so. Guarda che se tu adesso vai da Kimi e gli dici cosa stai facendo la Ferrari, so. Ti risponde come nello spot, non lo so, perché sei qui, non lo so. Bella, è la realtà, non lo sa davvero. Cosa pensi di Alonso non che sta 10-0 nei tuoi confronti dopo 10 Gran Premi? Non lo so, però tu tutta la vita Raikkonen. No, ma dimmi ancora una cosa Leo, tu mi hai spiegato i motivi per cui la Williams e Bottas e Felipe eccetera, ma c'è che Antonio Conte viene da Ferrari dall'1 sì, settembre, non riprende la notizia che no, ma la notizia già come motivatore ascolta, agghiaggiante, ma c'è una cospirazione plutomassonica anche dietro il sorpasso ormai acclarato di Rosberg ad Hamilton? No, lì io credo che non sia il caso di scomodare certe teorie cospirative. Diciamo però una cosa, Rosberg è tedesco, tu lo guardi sinceramente, biondo, così, occhi chiari, ti fa venire in mente certe teorie di un passato che pensavamo dimenticato. Mm-hmm. La Daimler Benz dove ha i suoi uffici, i suoi quartieri generali? A Stoccarda. Mm-hmm. L'altro, chiamiamolo così, della scuderia è un po' scuro di pelle, come avrebbe detto un recente assolto in un processo molto abbronzato. Io posso anche essere portato a credere che in Mercedes, no, tra un tedesco biondo occhi chiari sì. e un caraibico passaporto britannico bla bla bla possano preferire quell'altro, no? Cioè il biondino. Però io tutta la vita con Hamilton, che voglio garantire ai tuoi radioascoltatori, tra Piero e Cormano, se guidasse Hamilton non ci sarebbe la coda. Sta guidando Raikkonen e lì rallentare, avete capito? Anzi, schiacciate il triangolino, mettete il triangolino che... E vedete il cuore in pace, coda. Grazie Leo. Senta, ma io cosa farei nella vita senza di te? Non lo so. No, reciproco, come tu sei reciproco. Sei un gigante. Ciao Leo. Grande abbraccio. Ti abbraccio. Ciao. Ciao. Rosario Salerno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io nutro parecchie perplessità per quanto riguarda la candidatura di Conte come allenatore della Ferrari. E credo che sia più un fatto emotivo dettato dal fatto che lui sia stato abbia vinto il campionato nazionale. Però non credo che il suo curriculum a livello nazionale sia così efficiente visto i risultati che ha ottenuto con la Juventus, per poter oggi garantire un futuro migliore di quello che ha dato Prandelli alla nazionale. Beh, perché, scusi, no, ma il curriculum di Prandelli non è che fosse molto migliore, cioè, poi... Lo so, ma difatti ricadiamo nello stesso errore allora. No, ma... perché Conte non è che ha fatto molto bene in campo internazionale con la Juventus, eh? Non ha avuto sì. questi grossi successi. Beh, noi abbiamo bisogno di uno che conosca il mercato, che il campionato internazionale, che possa sostituirsi a Prandelli in maniera più positiva. Me ne viene in mente uno solo, si chiama Carlo Ancelotti, ma mi sembra che abbia da fare in questo momento. E poi, lo so. Mancini potrebbe essere un'alternativa, secondo me, migliore, visto la sua esperienza internazionale. Beh, potremmo discutere su se parliamo di risultati in campo internazionale, anche su questo potremmo discutere, che Mancini nelle coppe non sempre ha fatto benissimo, diciamo così, però non dimentichiamo anche che comunque la carriera di Conte, dati una grafica alla mano, soltanto all'inizio, mi sembra che nelle ultime stagioni male se uno abbia fatto. Fer du Nord, Paris-Roubaix, Tour de France, la Côte d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France. La corsa più importante del mondo e perciò pensi che tocchi il cielo con un dito, nel vero senso della parola. Poi con Vincenzo ho un rapporto di stima e reciproca incredibile, cioè so che questo ragazzo farà innamorare di nuovo il ciclismo a moltissima gente, perciò se arriviamo a Parigi sicuramente il ciclismo guadagnerà tantissimo. Qual è la tappa che temi di più delle tappe pirenaiche, quelle di Otacampo? Sì, quello di Utacan, perché facciamo il Tourmalet, il Tourmalet è una salita sicuramente che fa sempre paura, e poi Utacan è una salita dove ho sempre sofferto un po', mi ricordo che anche Marco ha sempre fatto un po' fatica su questa salita, abbastanza impegnativa, dura nel finale, perciò insomma il Tour poi è sempre pieno di insidie, perciò spero dopo Utacan posso respirare un po' meglio. Questo era Beppe Martinelli al microfono di Piero Augusto Stagi, intervista di un'oretta fa, voce di Eurosport. Riccardo Magrini, ciao. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Senti, sentivo Martinelli, ma adesso mi sembra che sia il caso che gli altri cominciano ad aver paura di Nibali, anche in chiave di vittoria di tappa, perché Nibali sta parlando in questi minuti, però lui ha sempre detto se io controllo, però se ne ho vado ancora. Sì, il bello è fantastico quello che sta facendo Vincenzo, perché comunque al di là di tutti i gufi che ci sono, perché chiaramente la caduta di Fromm prima e poi di Contador dopo hanno messo nella condizione di Vincenzo Nibali di dimostrare anche più di quello che non dovrebbe fare, perché sinceramente sta andando forte, e il pensiero almeno di tanti che vedono questo Tour de France dominato da Vincenzo Nibali è quello anche che se ci fosse stato sia Contador che Fromm avrebbe dominato lo stesso. Ora vincere, come dice Beppe Martinelli, ovviamente bisogna aspettare, perché ci sono i Pirenei, la tappa di Okatam è molto insidiosa. Poi c'è sempre la cronometro, che fortunatamente era quello il pensiero soprattutto di Vincenzo, quello che poteva rappresentare un ostacolo finale. Io credo che a questo punto bisogna solo sperare che le cose che vadano fino come sono andate fino ad ora, perché gli avversari sono molto dominabili, diciamo, sì, così, e quindi sì. Vincenzo alla grande. Senti, Vincenzo... ma mi rispieghi, tiriamo fuori di nuovo i tricolori che abbiamo messo via in naftalina per i mondiali? Sì, perché prima sentivo l'intervento di Leo Turini che mi fa schiantare dalle risate sempre, perché è troppo forte. In questo caso la coda, se ci fosse davanti Vincenzo Nibali, non ci sarebbe davvero a Cormano, sarebbe bello mettere tutta una sfilzata di tricolori che purtroppo dalle delusioni del mondiale di calcio sono rimasti lì in naftalina. Ritiriamoli fuori, come da Eurosport è venuto fuori questa idea di Salvo Aiello, che è con me, si commenta il Tour de France insomma dal primo giorno. L'idea è venuta perché c'era un po' di scetticismo soprattutto dai media, dai TG serali all'inizio, insomma, l'impresa già a Sheffield di Vincenzo Nibali, e lì c'era ancora Fromm e Contador, insomma, non era stato dato risalto. Allora a noi ci è venuto anche in mente di essere un pochino patriottici e tiriamo fuori i tricolori. Io ce n'ho uno qui in mano con una striscia gialla messa in bella vista a far capire che comunque c'è un italiano in Francia che sta dominando e facciamogli il tifo. Questo si può anche, ci sono tanti tifosi che mandano le fotografie a testimonianza sull'hashtag di diretta Eurosport e l'hashtag, abbiamo fatto un hashtag bandiera gialla anche un po' in ricordo di quella famosa bandiera gialla che insomma porterebbe anche bene, speriamo che porti bene fino a Parigi. Guarda, se, per quello che può contare ci associamo gemellaggio Eurosport Radio 24 per la bandiera, per il tricolore con la striscia gialla sui striscia sui o quello che potete metterci qualsiasi cosa, basta che ci sia qualcosa di giallo. Qualcosa di giallo. Ora, non vorrei dire le mutande perché insomma le mutande sono un po' così, però una scarpa gialla, un fiocco giallo, quello che volete, con un tricolore, ma per far sentire il calore anche a Vincenzo Nibali, che comunque lo sente e sta diventando un idolo anche per i francesi, e la cosa è molto molto difficile. No, questo non c'è, chi ha la maglia gialla è un semidio in Francia normalmente, però insomma questa maglia addosso a un corridore italiano, vabbè, lasciamo stare che è un discorso lungo. Ma poi è bello perché lui comunque, guarda, ti dico, forse era peggio quando era meno, ora che è di più e che comunque ha la consapevolezza di aver vinto un Giro d'Italia, una Vuelta, e sta, insomma, speriamo, tocchiamo ferro, per ora dominando il Tour de France, fa sì che questo ragazzo sia veramente, quando apre bocca è una perla sempre, perché è molto bravo, è umile, insomma un siciliano trapiantato poi in Toscana, è un po' un patrimonio anche di tutti noi del ciclismo, e speriamo veramente per il ciclismo anche italiano che un po' in sofferenza c'è. Non dico come la Ferrari, ma insomma diciamo che siamo un po' lì. Sì, e invece è venuto fuori il lampo e c'è un sole giallo meraviglioso sul cielo francese. Grazie Riccardo. Grazie a voi. A presto, Riccardo Magrini. Ti seguiamo su Eurosport. Noi torniamo domani invece, tutta l'estate insieme, per un'ora fino alla ripresa dei giochi, del campionato, eccetera. Però tutti i giorni, dalle 14 alle 15. Franco Piantini, autore di questo programma, Fabio Cantone in regia, Claudio Schettone in redazione. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.